24 mattino. Allora siamo qua, sono le 8 e 23 minuti, eccoci cari ascoltatori, di cosa vogliamo parlare? Il giorno dello sciopero della CGIL, il giorno in cui le borse ieri crollano, i giorni della manovra, di questo vogliamo parlare. 800 24 00 24, tra l'altro se volete dire anche la vostra, ne vogliamo discutere intanto di manovra con una persona che la manovra la starà vedendo con occhi particolari, io credo, il professor Vincenzo Visco, che saluto. Buongiorno professor Visco, grazie per essere con noi. Allora, ministro più volte, è stato anche vice ministro nell'ultimo governo Prodi, e però professore, quante volte ha sentito in questi giorni è una manovra alla Visco? Intanto le fa piacere quando sente queste cose, che considerazioni le fa? Ma guardi, io normalmente cercavo di manifestare una maggiore professionalità, quindi non mi identifico in nessun modo in questa manovra. Naturalmente c'erano degli aspetti che riprendevano misure che avevamo anche introdotto nel passato in altri governi, noi. Per esempio? Prese fuori dal contesto, ma alcune di queste misure contro l'evasione o presunte tali, ma le differenze sono sostanziali. Senta, ma lei come vede questa manovra che va e viene un po' modificata? Oggi anche c'è stato ieri il capo dello Stato Napolitano che ha invitato, insomma, a un momento decisivo, al momento delicato, insomma, in cui bisogna decidere. Io vedo che la manovra è contraddittoria, confusa, mutevole e che non convincente. L'intervento di Napolitano ieri era chiarissimo, è quello di una persona si rende conto che i mercati non sono convinti e che continuano a spararci addosso e a punirci. Quindi sostanzialmente Napolitano ha chiesto un'integrazione della manovra, se ho ben capito il senso della sua, del suo intervento. Siamo al disastro. Lei dice siamo al disastro, ma perché? Voglio dire, per esempio, le annunciate stretta sull'evasione fiscale annunciata dal ministro Tremonti non la convince? Ma guardi, lì non c'è niente prima e non c'è niente dopo che hanno pure corretto o eliminato alcune delle misure come che erano peraltro così di maniera liso di controllo sull'evasione. C'è una norma che è quella che viene definita relativa alle società di comodo, che in realtà darà dei soldi per il semplice fatto che quella è una norma che tassa tutte le imprese in deficit per alcuni anni e queste non sono necessariamente società di comodo. Pensi a tutta l'edilizia che funziona proprio così: uno per fare un palazzo, un quartiere, un qualcosa, fa una società e per 2-3 anni o più quella società mostra perdite. Tremonti la considera la società di comodo e gli prende un'imposta, una minimum tax sostanzialmente. Ora, dato di queste società in perdita nell'ordinamento italiano ce ne sono tante, queste daranno gettito, però non è lotta all'evasione. Non è lotta all'evasione. È una minimum tax. È la minimum tax. Senta, ma che dovrebbe fare? Perché secondo lei si è parlato di aumento dell'IVA, di patrimoniale, di ritoccare le pensioni, ma boss e la Lega non ci sentono da questo orecchio. Lei che farebbe? Si rimetta un attimo nei panni? Si può fare tutto quello di cui si è parlato e eventualmente anche di più in modo diverso, ma soprattutto il problema adesso riguarda il governo, cioè il governo si deve dimettere. Cioè, i mercati stanno cercando di far dimettere il governo e la cosa più terribile che uno vede in questi giorni sentendo i commenti all'estero è il disprezzo e gli insulti espliciti che questi ormai dedicano all'Italia e al suo Presidente del Consiglio. Addirittura, cioè dice che quindi c'è una pressione da parte dei mercati in quel senso. I mercati dicono con questa gente non si va lontano. Lo dicono, lei ha visto le coniche di Villa d'Este? E certo, come lì ce n'è uno, cioè, il Diego Romilti che dicevano questo, e lo dicevano senza eufemismi, senza mezzi tempi. Quindi lei dice da parte dell'Europa c'è proprio un addirittura ha dato la parola disprezzo nei confronti dei commenti. Dicono quel certone, quel farabuto, dicono cose di questo genere, insomma cose che non si è mai sentite nei confronti di un capo di Stato. Ma secondo lei la Merkel ha ragione, in un consesso privato pare che abbia paragonato la situazione dell'Italia a quella della Grecia. Merkel ha dimostrato che capisci poco, no, non è così. Lo diventa, noi non siamo ovviamente né la Grecia né anche la Spagna, siamo meglio, però se siamo gestiti male finiamo anche peggio, perché siamo più grandi e con maggiore debito, no? Quindi ci vuole coerenza e coesione. Ma sa, dopo, d'altra parte, lei va di fronte a un paese dove gli chiede sacrifici rilevanti, dopo avergli detto che tutto andava bene per 3 anni, che la crisi non c'era, che noi eravamo meglio degli altri, cioè questi qui sono sbalorditi e reagiscono in modo violento. Insomma, le cose più singolari non è tanto lo sciopero generale della CGIL di oggi, sì, ma la marcia dei sindaci di ieri, insomma, no? Ma guardi, tra l'altro, però, dello sciopero della CGIL e della marcia dei sindaci, anche se vuole, noi ne riparliamo tra pochissimo. Le chiedo solo un attimo di pazienza, do la pubblicità. Prego. E il meteo, e poi ci raggiungerà anche il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, la cui vicenda proprio in questi giorni è strettamente legata allo sciopero della CGIL, visto che oggi il Corriere non è in edicola per questo. E allora, tra un attimo, ma continueremo anche con Vincenzo Visco che rimane con noi. E ci raggiunge Ferruccio De Bortoli tra poco. 24 mattino. E allora eccoci qua, alle 8:34 minuti, continuiamo a parlare di manovra nel giorno dello sciopero generale della CGIL. E allora voglio salutare e ringraziare il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Con noi tra l'altro è rimasto anche il professor Vincenzo Visco che l'ascolta. Senta, De Bortoli, intanto ecco, il Corriere non è in edicola, insieme per la verità all'Unità. C'è stata una dura polemica tra lei e il segretario della CGIL Susanna Camusso, che ieri ha risposto nessuna deroga anche per il Corriere della Sera. Lei, direttore, come giudica lo sciopero e anche questa vicenda che coinvolge personalmente il suo giornale? Per la verità l'Unità è presente oggi con uno speciale per tutte le piazze della CGIL, quindi cioè, niente, non hanno voluto la CGIL fare alcuna deroga nei nostri confronti, avendo noi una percentuale di lavoratori iscritti alla CGIL più elevata rispetto agli altri giornali, lavoratori che erano disponibili a dare una deroga e si rendevano conto dell'ingiustizia di non far apparire il loro giornale, ma non è stato possibile, anzi non ho nemmeno ricevuto risposta da parte di Susanna Camusso. Il fatto di non aver ricevuto risposta, lei ieri ha scritto nel suo editoriale, insomma, educazione a parte, quasi un senso di fastidio della sua posizione rispetto alle critiche, alle posizioni del Corriere della Sera. È anche il sintomo di un momento davvero delicato. No, ma io capisco anche lo stato d'animo della CGIL, contesto il diritto di sciopero, credo che sia anche sbagliato isolare la CGIL, credo che l'inserimento nella manovra anche di quella norma che riguarda il mercato del lavoro sia stato un infortunio, non credo che abbia quelle conseguenze di cui parlerà oggi dal palco Susanna Camusso, ma credo che abbia rappresentato un errore, una volontà anche da parte del governo di dividere il sindacato, insomma, questo credo che sia grave, credo che l'abbiamo anche scritto, insomma. Ma indipendentemente dalla vicenda Corriere, ci si chiede, l'Italia si chiede se sia opportuno lo sciopero in questo momento, anche con i partiti politici che si dividono. Bersani ha detto, per esempio, ci saremo, il PD compatto in questa giornata. Guardi, lei si metta nei panni di un investitore straniero, vede, un governo che in un mese ha cambiato svariate volte la manovra, ha smentito se stesso la mattina dopo. Oggi, giornata particolare dopo quello che è successo, vede che l'Italia è ferma per uno sciopero generale, vede le immagini di Piazza Affari, quello che è successo, si domanda poi se il paese sia non solo governato, ma se il paese poi sia anche pronto, insomma, a fare i sacrifici che sono necessari, perché insomma non si può fare la polemica come l'hanno fatta alcuni ministri a Cernobbio domenica scorsa, sul fatto che i mercati non capiscono e che comunque agiscono nei confronti di tutti. Bisogna essere credibili, oggi non siamo credibili. La credibilità, professor Visco, lei ha detto, addirittura ha usato parole molto dure, ha detto dall'Europa ci usano termini, usano posizioni davvero davvero dure nei confronti del governo. Però De Bortoli, faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Visco: ha ragione la Merkel quando ci paragona, pare, in un consesso privato alla Grecia, o ha esagerato? Ma secondo me assolutamente esagerato, perché le dimensioni sono differenti, le situazioni sono differenti, perché il nostro paese è migliore della sua rappresentazione sui grafici dei mercati, dal punto di vista della solidità, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista della capacità di esportazione delle proprie imprese, che esportano come quelle tedesche. Ma noi paghiamo un'immagine negativa, che è un'immagine negativa principalmente il governo, e probabilmente questa debolezza europea poi spinge anche a non essere credibili. Devo dire che noi siamo tra i fondatori dell'Europa, e oggi c'è un direttorio, peraltro modesto dal punto di vista politico, della Merkel e Sarkozy, l'Italia non esiste. Visco, le vorrei chiedere, ma secondo lei non c'è un po', in questo momento lei si sente anche un po' in un momento di rivincita? Credo che lei in un'intervista abbia detto sono sempre abituato ad avere ragione postuma, lei sta benissimo, insomma, è qui con noi, ma postuma politicamente. Si sente un po' in questa situazione oppure no? Sì, mi sento in questa situazione, ma del tutto irrilevante. Io sono molto, ma molto preoccupato, anche perché noi potevamo cavarcela, poche lacrime, poco sangue, e rischiamo di andare abbiamo di fronte alle prospettive che possono diventare terribili. E di questo la gente non si è resa conto, perché è drogata da ormai 10-15 anni di falsità, di rappresentazioni non vere della realtà economica, che appunto si poteva addrizzare con un modesto riduzione del tenore di vita degli italiani. Adesso invece siamo di fronte a situazioni che possono anche richiedere interventi di tipo straordinario. Senta Visco, però le chiedo questo: vogliamo venire alla vicenda? Ci può dire una verità sua definitiva su questa vicenda della pubblicazione famosa dei redditi degli italiani? Perché è tornata fuori e poi è riscomparsa adesso. Intanto lei, pensando al 2008, quando furono pubblicati, sì, per un po' di tempo, poi ci fu l'intervento del garante della privacy, sì, alla luce di questo, intanto è convinto che si debba sapere, cioè che dobbiamo vivere in una casa di vetro e tutto sia trasparente, sapere quanto guadagna anche il suo vicino di casa o no? Guardi, il problema è stato posto male fin dall'inizio, perché questa norma c'è sempre stata nella legislazione tributaria italiana, da prima ancora della riforma del 73, quando c'era la pubblicazione delle dichiarazioni relative all'imposta di ricchezza mobile, poi si è fatta con l'IRPEF e venivano usati i comuni come luogo in cui la gente poteva andare a consultare. Lì il salto e il trauma è derivato dal fatto che l'Agenzia delle Entrate, interpretando la legge, dice: ma oggi c'è internet, l'ha messo su internet. E questo ha creato un po' di trauma. Secondo me la norma è giusta, non c'è niente di drammatico, va usata bene, nel senso, per esempio, bisognava probabilmente mettere l'impossibilità di scaricarsi i dati, o anche il fatto che chi interroga il sistema viene registrato anche lui, in modo da avere anche un equilibrio, un deterrente. Però dal punto di vista della trasparenza e degli effetti sul comportamento, quella è una norma importante. Insomma, è una norma importante. Non ci vede la delazione, il rischio. Tenga presente che negli altri paesi, gli Stati Uniti in testa, pagano le spie fiscali. Cioè, ci sono sistemi di delazione codificati che da noi non sarebbero concepibili, insomma, no? Quindi, insomma, come sempre, quando si parla di tasse vengono fuori tutte le prurigini, le prudenze, sì. No? Dico, ma è normale. Lei di recente ha detto: passavo per un persecutore, per un matto, un po' persecutore lo era, almeno nell'immaginario collettivo. Guardi che Visco viene visto un po' come quello che metteva le mani nelle tasche degli italiani. Io le tasse sono l'unico che le ha tolte, domandi agli imprenditori di Milano. Cioè, dico, chi gli ha ridotto le imposte? Per i due le dovevo farle pagare un po' a chi non le pagava, insomma. Ah, ecco. Intanto, intanto. Poi naturalmente su questo si creano anche così fantasie e miti, insomma. Per esempio Berlusconi, che ha detto nella prima manovra agostana: il mio cuore gronda sangue. Ma io sapevo che il vero sangue di Dracula era lei, insomma, quello che prendeva il sangue. Vabbè, tanto comunque il sangue non è di Berlusconi, era quello nostro, quindi questa cosa che se c'è sangue che grondava non era quello suo. Non era quello suo. E comunque, guardi, qui governare un paese come l'Italia in una situazione di difficoltà, eccetera, non è un pranzo di gala. Non è un pranzo di gala, e il ruolo più esposto è quello del ministro delle finanze o del tesoro. Io ho fatto tutte e due i compiti, devo dire che il ministro del tesoro ha una pressione addosso che è infinitamente minore di quello delle finanze. Poi unificando le due cose ovviamente se le prende tutte. Senta, mi lasci dare un paio di ascoltatori. 800 24 00 24, il numero per intervenire. Allora, Barbara da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica, Barbara. Solo un paio di cose. Infatti, riferimento a quello che diceva il dottor De Bortoli, sì, in riferimento all'Italia bloccata. L'Italia è bloccata probabilmente in alcune zone, nel senso che il governo, elettore di centrodestra, dico, il governo non sta facendo nulla di ciò che dovrebbe essere fatto, l'opposizione idem come sopra, una certa stampa, una gran parte della stampa sta dando un'idea che è proprio lontana dalla realtà, ma l'Italia non è ferma. Io lavoro in un gruppo industriale decisamente manufatturiero e oggi la gente ha lavoro. Nel senso, la CGIL nei lavoratori non ha più il mordente che aveva probabilmente fino a qualche anno fa. Tanto per cominciare, i giovani che cominciano a lavorare non si iscrivono al sindacato, sì, e soprattutto non si iscrivono alla CGIL. Cioè, bisognerebbe andare a vedere nel numero degli iscritti quanti hanno sotto i 50 anni, quanti lavorano realmente. Lei è come dice Renzi, che dice il sindacato è fatto per lo più da pensionati, che per carità, cioè, stimabilissimo. Da statali, non da chi lavora nelle industrie e da chi ha visto e sta vedendo cose inaccettabili. Però lei ci sta dicendo, Barbara, anche l'immagine di un'Italia che non corrisponde alla realtà, quella di un'Italia in realtà che ha lavoro, però lei lo dice dalla sua prospettiva, magari una prospettiva positiva dal punto di vista industriale. È molto grande, molto manufatturiero, e che per la funzione che ricopro gira molto le aziende del gruppo. Lavoro in una, ho vari amici, essendo laureata, avendo avuto varie esperienze di lavoro nel passato prima di entrare nel gruppo in cui lavoro, sì, ho veramente un novero di persone che lavora in vari gruppi industriali importanti. Dice che l'Italia sta lavorando, l'Italia sta partendo. No, la ringrazio per la sua testimonianza, Barbara. Diamo le informazioni sul traffico, poi rimaniamo con Vincenzo Visco, Ferruccio De Bortoli. Riparto anche da Anna, dalla provincia di Siena, ascoltatrice, che è lì da un po' tra poco. E allora, eccoci qua, Anna dalla provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ascoltavo la radio, mi sono veramente, diciamo, infiedata, siamo in radio appunto. Lei ha chiesto all'ex ministro dell'economia Visco, sì, quali soluzioni proporrebbe per quelle soluzioni economiche, e lui risponde che l'unica soluzione per l'Italia è mandare a casa Berlusconi. Ora io premetto, voto il centrodestra. Berlusconi non mi è mai piaciuto assolutamente come persona, anche se non ritengo disonesto come dicono loro, però questi fanno vergogna. Cioè, si servono della crisi degli italiani per fare politica. Se avessero, hanno solo un'idea fissa, mandare a casa Berlusconi. Se avessero delle soluzioni, potrebbero esporle. Cioè, dice le soluzioni, non le piace l'idea, intanto mandiamo, questo governo deve andarsene, deve andarsene a casa. Ma non è una soluzione. Berlusconi, la tua ingenuità o stupidità, tutto sommato credo che sia in buona fede, lui vorrebbe fare il bene degli italiani, ma in realtà non ci riesce e non lo rivoteremo, ma certo non voteremo la sinistra, la quale si approfitta di noi, è in malafede. E se ha le soluzioni, che fa? Quando è il governo le tira fuori dal cappello? Va bene, grazie Anna per la sua posizione, tra poco le risponderà Visco. Prima però vorrei dal direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, se ci può aiutare a capire che cosa vuol dire quello che sta succedendo sugli spread, sui mercati tra i BTP e i Bund tedeschi. Perché leggiamo, De Bortoli, tutti i giorni questa cifra, questo spread, ma molta gente si impaurisce. Cosa vuol dire in concreto il rischio che questi spread, che questo spread aumenti continuamente dal punto di vista della vita di tutti noi italiani e del sistema paese? Guardi, vuol dire che ogni giorno noi, per farci prestare dei soldi, dobbiamo pagare un premio al rischio, cioè l'inaffidabilità del nostro paese, che ormai sfiora i 4 punti di differenza rispetto al rendimento degli analoghi titoli di Stato tedeschi. Si può pensare che sia una cosa astratta che riguarda soltanto la finanza, i mercati, ma pensate a quello che succede per le banche. Le banche dovranno finanziarsi pagando molto di più e aumenteranno ovviamente il costo del denaro. Il costo del denaro inciderà direttamente sull'attività produttiva del nostro paese e probabilmente anche sull'occupazione e sui redditi dei nostri cittadini. Ci meritiamo un premio al rischio così elevato per quello che facciamo ogni giorno? Io credo di no, credo che questa sia una profonda ingiustizia. Credo sia una profonda ingiustizia, però noi spesse volte ci dimentichiamo che ogni anno dobbiamo chiedere al mercato, per rinnovare i titoli del nostro debito pubblico, 300 miliardi di euro. Quasi la metà di questi titoli sono collocati all'estero e qui è tutto spiegato, il tutto. Qualche volta ce lo dimentichiamo, se lo dimentica il governo, ma ce lo dimentichiamo anche noi italiani. Senta, Visco poco fa ci ha detto su quella vicenda famosa della pubblicazione dei redditi che è stata rispolverata e poi rimessa in archivio, dice che il principio in realtà, forse fu sbagliato il metodo, mettere su internet eccetera, ma il principio in sé è un principio valido, giusto? Che ne pensa lei, direttore? Ma io credo che una certa forma di pubblicità dei redditi o delle somme che paghiamo al fisco sia giusta. Vede, qualche volta io ascolto la radio, vedo in televisione alcuni famosi imprenditori che dicono, ci vuole la patrimoniale, per carità, idea legittima, io non sottoscrivo idea legittima, però insomma per senso estetico io mi asterrei dal fare simili dichiarazioni se non si paga una lira in Italia e tutte le società sono basate in Lussemburgo o in qualche paradiso fiscale, insomma. Io credo che sia giusto che in qualche modo si dica qual è l'apporto che ognuno di noi può dare al nostro paese. Poi stiamo attenti perché l'eccessiva pubblicità può scatenare anche fenomeni poco gradevoli. Dopodiché, la cosa importante è questa, le banche dati ci sono, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate possono incrociare i dati quando vogliono. Una seria lotta all'evasione fiscale si può e si deve fare. Certo, farla all'improvviso con delle misure anche discutibili, dopo che non più tardi di 2 mesi prima si era detto all'Agenzia delle Entrate di togliere le ganasce fiscali, di aumentare i tempi per gli accertamenti, perché in questo caso faceva perdere voti a qualche forza politica della maggioranza, beh, insomma, questo è tutto contraddittorio. Tra l'altro, Visco, molti messaggi ci dicono, mi scusi, ma Visco è quello dell'IRAP, per esempio, no? È colui che lo state facendo passare per colui che aveva tutte le soluzioni, ma in realtà, glielo dico, molti scrivono anche, in realtà anche lui ha contribuito ai disastri di questa Italia, insomma, vede che la posizione è scomoda, quella di fare il ministro. Sì, si immagini. Naturalmente poi si dà il caso che i governi che erano contrari per esempio a questa imposta sono stati al potere per 10 anni, hanno sempre detto che volevano abolirla e non l'hanno mai abolita. E comunque il problema vedeva, io più volte ho detto a chi protestava, e poi è un settore del mondo delle imprese, neanche non quelle grandi, per esempio la Sony mi è assolutamente favorevole. E io ho detto, ma se voi preferite torniamo ai contributi sanitari che c'erano prima e alle altre imposte che furono abolite, e con l'IVA furono abolite 7-8 imposte. E a quel punto tutti dicono, no, per carità, teniamoci l'IVA. Allora, insomma, qui fa parte di questa propaganda così deformata, demonizzazione. Cioè, dal punto di vista tecnico sfido chiunque a trovare a livello mondiale qualche economista esperto in tassazione che non apprezza l'IVA. Ma tra l'altro solo in Italia c'è stata questa cosa, proprio perché da noi non c'è cultura economica ed è stata pompata una campagna contro. Ma lei tra l'altro ha detto sono stato un po' anche perseguitato per le mie idee, ma anche, mi pare di capire anche dai suoi, cioè perché per esempio lei non fa politica adesso? Anche perché dopo poco meno di 30 anni in Parlamento, 7 anni al governo, ho pensato che era il momento così anche di beh, uno dei pochissimi. Disintossicarmi un po'. Nello stesso tempo io continuo a occuparmi di politica, ma lei ha ragione, quando si tratta di misure che hanno impatti diciamo sulla gente, non si trova facilmente il consenso se le misure sono impopolari. E nel caso dell'evasione fiscale, dato che l'evasione fiscale in Italia è di massa, si tratta di qualche milione di voti. Allora i partiti sono estremamente sensibili, tutti quanti. Da un lato vogliono che questi paghino, dall'altro quando uno li fa pagare dice ma tu li fai arrabbiare, no? E quindi c'è questa contraddizione qui. Si perdono voti, insomma, a fare una lotta all'evasione fiscale. Voti, ma questo qui, appunto qui c'è il direttore De Bottoli, il suo giornale, questo mi ha imputato, dice sarà tanto bravo ma perdi voti, perché però i soldi dell'evasione servono, no? Non so, direttore De Bortoli, per concludere, se vuole una replica alla questione Visco, non so se è riabilitato, qualcuno dice, dalla manovra attuale, oppure no? Più che riabilitato è largamente imitato, insomma, da questo punto di vista, perché insomma, poi alla fine gli strumenti sono sempre gli stessi, no? Se si vuol fare una efficace lotta o un efficace contrasto all'evasione e all'elusione, gli strumenti sono quelli di cui ha parlato il professor Visco, insomma, che ha ricordato ovviamente che l'IRAP sostituiva tante altre tasse. La discussione che è stata fatta sull'IRAP era soprattutto il fatto che sull'elemento dell'occupazione incidesse in qualche modo sulla tassa, che qualche volta si pagava anche in perdita. È vero anche che molti hanno detto aboliamo l'IRAP dal prossimo anno, e poi l'IRAP è rimasta. Quindi c'è stato un capovolgimento delle posizioni che va di pari passo con la scarsa cultura economica del paese di cui parlava il professor Visco prima. Io qui mi devo fermare, vi ringrazio il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e professor Vincenzo Visco, ex ministro e ex viceministro nell'ultimo governo Prodi. Allora su 24 Mattino, la nostra pagina Facebook, continua il dibattito, andate lì. Voglio ringraziare anche Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Potete anche scriverci a 24mattino e radio24.it è la nostra mail, e noi ci troviamo, passando la palla e il microfono a Oscar Giannino, domani alle 7:20.